Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Ed eccoci in questo sabato sera, un saluto festoso a tutti i nostri radioascoltatori su queste interconnessioni web di Restoradio Convento. Io sono Mr. Dave e ho il piacere di introdurre due simpaticissimi personaggi che arrivano da Soncino, in quel della provincia di Cremona, che si chiamano Emanuele e Gianluca. Emanuele e Gianluca sono capitati qua non per caso, ma per... Faccio un compleanno di mia moglie, che compie adesso 18 anni. Auguri! Sì! E tua moglie si chiama? Caterina. Per Caterina i Piburra! Che qua davanti che ci stanno ascoltando, tra l'altro. È mia moglie quella. Ah, non è Caterina, e lei è? Elisabetta. Elisabetta, Caterina è quella di spalle che ha 18 anni. Ecco, ho capito. Quindi 18 anni di Elisabetta. No, di Caterina, adesso do i numeri. Beh, è uno e uno, siamo, sì, uno pari. Certo. E quindi, vi siete divertiti? Da matti. Molto. Avete mangiato bene? Sì. Da Dio. Poi dopo vi do la mancia dietro. Siamo venuti quest'estate, ma eri in ferie. Ah sì? Sì. E ci siamo arrabbiati. Ah, ho capito. Infatti, ma sì, non è la prima volta che ci siamo già visti. È la seconda, e quella d'agosto ho cantato un altro inedito dedicato a mia moglie. Proprio. Sì, perché è per i nostri ascoltatori, Emanuele e... Gianluca, cioè, voglio vedere se eri presente sul pezzo. Sono presente anche qua. Sono due musicisti. Sì, quindi racconta. Allora, noi facciamo parte di un gruppo che si chiamano gli Omega 3 e i Principi Attivi. Io sono il batterista e compositore. E io sono il tastierista. E l'arrangiatore, perché io so solo la musica della batteria e lui fa tutto. Ho capito. E in quanti siete nel gruppo? Cinque elementi, quindi abbiamo la batteria, il basso, la chitarra, senz'altro. La tastiera, 4, e il quinto? Il cantante. E chitarra. Ah, cantante e chitarra fa? Sì. Quindi due chitarre, un basso. Allora, una chitarra, un cantante, un bassista, un tastierista, un batterista. E chi abbiamo dimenticato? E bassista, scusami. Infatti, ce la faremo. I conti non tornavano. Ma e che genere fate? Cover? Facciamo pezzi inediti e anche cover. Facciamo un po' di tutto, Vasco, Ligabue, quel che c'è, e pezzi inediti che variano dalla dance, suonata sempre con batteria elettronica, rock, pop, un po' di tutto. Ma io... quindi vi esibite anche in locali? Speriamo, perché abbiamo perso molti musicisti perché avevamo paura del nostro genere. Ah, genere un pochettino, ma che tipo, heavy? No. Liscio? No. È un genere dove va capito, perché il vero musicista è quello che sa improvvisare. Cioè, il musicista improvvisa. E se è bravo a improvvisare, un vero musicista. Ho capito, sì, la cosa si fa interessante. Avete un canale YouTube che possiamo... Abbiamo YouTube che si chiama Omega 3 e Principi Attivi. Quindi ragazzi, cerchiamo Omega 3 e Principi Attivi. E un canale Facebook che si chiama Omega 3 e Principi Attivi. Ah, esatto. È abbastanza facile. Quindi ripetiamo, Omega 3 e Principi Attivi. Sì. Abbiamo cantato a cappella sul canale del convento, gentilmente offerto dal... Beh, questa sera? Questa sera. Quindi ce lo rivediamo nei video di Area YouTube del sabato. Sì, la canzone del sabato di Nerendense. Sì, certo. Voglia gli ha di mare, che è dedicata all'estate, perché io questo pezzo qua l'ho scritto in piscina, dove tutti i miei amici, soci mi mandavano foto di Sardegna, Sicilia, ma ero a casa. Io ho detto, tipo, guarda questi qua che hanno voglia di mare. È presente il voglia proprio da incazzato. È presente, se si può dire. Un affettato con 3T. Sì. Ecco, qui è tanta voglia. Tanta voglia. E poi il mio carissimo amico Gianluca me l'ha fatto morbidire, perché voglia di mare è un modo di dire, perché se hai buoni amici, armonia, il mare lo trovi anche a casa tua. E lo spero di averla fatta bene sui canali, perché lo posso dire, no, no, no, no, non diciamolo che ti sei divertito tantissimo. Ma no, che il vino, era, che il vino era buono, almeno quello posso dirlo, scusami. Ho capito, e gira tutta la stanza mentre si danza, bellissimo. Sì. Va bene, allora quindi andremo senz'altro a controllare il vostro canale YouTube, che ripetiamo, gli Omega 3 e i principi attivi. Sì. Dico bene? Sì, che non c'è ancora nessun video perché dobbiamo farli. Non c'è solo il canale. Ho però abbiamo Facebook. No, allora non possiamo ascoltare nulla in un'anteprima. Chi? No, niente. Non andiamo ad ascoltare. Però sul nostro sito convento.it, nella sezione del sabato Dinner and Dance area YouTube, abbiamo Emanuele e Gianluca che cantano Tanta voglia. Voglia gli ha di mare. Tanta voglia di mare. No, voglia gli ha di mare. Voglia gli ha di mare, perché. Benissimo. Prova, allora, prova a dirlo. Voglia gli ha di mare. È bravo. Bellissimo. Ah, come suona bene, mi piace, mi piace. Benissimo, allora volete salutare oltre a Caterina e Elisabetta? Salutiamo anche qualcun altro. Allora, vogliamo salutare sicuramente, beh, come vi ha detto, Caterina dalla parte del mio giallo e Elisabetta dalla parte mia. Esatto. Vogliamo salutare il Presti, che è il nostro carissimo cantante. Well, Presti, sì, c'è. Presti ci sta. Massimiliano, il nostro chitarrista. Vai. Ivo, il nostro grandissimo bassista, e poi, se posso permettermi, Edoardo, che è mio figlio, che è un grande, che è a casa con mia suocera. Benissimo, allora salutiamo tutti quanti, un grande saluto anche da Mr. Dave, ciao ragazzi e alle prossime. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.